È una regola che sì, ci limita, ma come tante altre regole che ci stanno in giro. Benvenuti al mondo delle civiltà, come se dipendesse dalle comodità. Benvenuti al mondo delle dignità, sotto i piedi pesanti della pubblicità. Grazie al progresso, se devo pensare adesso, basta un telecomando. Il dittatore non va sentito come una limitazione. Ricordate che io sia onesto nel dire da dove sono partito, cosa ha fatto un'altra persona e che cosa ho fatto io. Tutti verso il mondo delle libertà, bello come uno slogan di una pubblicità. Non cambiare canale, no, guarda che varietà. Qua c'è chi muore di fame, ma prima pubblicità. Grazie al progresso, se devo pensare adesso, basta un telecomando. Grazie al progresso, se devo pensare adesso, basta un telecomando, basta un telecomando, basta un telecomando.